Palpito, se ota mi impara, senza te esistere, io non potrei. Ma sangue in veta, pare travato, venendo a uccidere, non volterò. Scorda l'affanno, donna dorata, me perdone al genitor. Io te perdoni, la resto io, ma sono morta al vivere in me. Non lo volevo, l'angel mio, ma più di vivermi. Potrà da me. Oh! si affanni, compenso avrai. La tua salute rifiorirà. Ever la vedi, padre mio. Di più non la cerarmi, troppo il rimorso l'alma mi divora. La si fulmi a terra, ogni suo detto. Col conto vegliardo, il mal ch'io feci, ora so il pelo. Ritorno a vivere!